Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti all'ascolto di una nuova puntata. Come sapete, da inizio settimana stiamo dedicando la mia trasmissione all'economia criminale. Nei giorni scorsi abbiamo raccontato storie in Piemonte, in Liguria, ieri in Lombardia. Oggi ci soffermiamo su una regione vitale, l'Emilia-Romagna. E ne parliamo con chi? Con il procuratore aggiunto di Modena, Lucia Musti. Fino a poche settimane fa era sostituto procuratore alla direzione distrettuale antimafia di Bologna. Buongiorno dottoressa Musti. Buongiorno a lei, buongiorno agli ascoltatori. E con Egidio Pagani, che è assessore provinciale alle infrastrutture e allo sviluppo delle città e del territorio della provincia di Modena ed è anche il referente dell'osservatorio permanente sugli appalti di quella provincia. Buongiorno Pagani. Buongiorno. Allora, dottoressa Musti, partiamo da lei. A me una cosa ha colpito: le migliaia di titoli di agenzie di stampa che dal 2002 al 2010 dai giornali locali sono stati dedicati a storie di mafia. Perché le dico questo? Perché la mia sensazione, ma lei mi corregga se sbaglio ovviamente, è che anche in Emilia-Romagna non si sia ancora pienamente capito l'importanza di dare una linea, diciamo così, di continuità e di fermezza alla lotta alle mafie. È così o sbaglio? Ha ragione, un po' no, nel senso che effettivamente i primi anni, partendo proprio dal 2002, che più o meno è l'anno nel quale io sono arrivata alla DDA di Bologna, anzi correttamente è l'anno 2003 che io ho cominciato a prestare il mio servizio alla DDA di Bologna, effettivamente nei primi anni si registra una scarsa sensibilità a questo fenomeno, un pensare non è un affar nostro, è un affare di un'altra parte d'Italia. O per fare una battuta, sono cose che non sono di cosa nostra, certo. Sono cosa di altri. Quando però poi ci sono stati dei segnali pesanti, per segnali pesanti intendo dire sparatorie, ecco. Con morti ammazzati anche. Con morti ammazzati, perché io avevo un osservatorio privilegiato, perché certo. Come DDA Emilia Romagna e quindi non soltanto Modena dove adesso appunto lavoro, quando sono cominciati a scappare il morto, il ferito, intendo dire il gambizzato. Sì. Allora si è cominciato a prendere coscienza di questo fenomeno e quindi possiamo dire che ultimamente si registra una maggiore sensibilizzazione anche a livello di organo centrale regionale, alludo appunto al Consiglio regionale dell'Emilia Romagna ad esempio. Certo, questo fa piacere. Lei ha perfettamente ragione nel dire che ho una parte di ragione, una parte di torto, e io voglio avere una parte di ragione e una parte di torto, perché ovviamente soltanto quando si ha la ricerca, diciamo così, di una verità, un confronto dialettico, si può sensibilizzare la collettività amministrata su un tema. La mia parte di ragione, ad esempio, ma qui non raccolgo un suo giudizio perché so che sarebbe troppo delicato, è quando, lei lo ricorderà, ci fu il prefetto di Parma che ebbe una violentissima polemica con Saviano, che ricordava come in quella città la mafia, la camorra, i casalesi in particolare, ci fossero e come. Ma va benissimo che si sensibilizzi. Mi scusi se la interrompo. Prego. Proprio io e il procuratore aggiunto di allora di Bologna, distrettuale, il dottor Tiro, prendemmo posizione manifestando solidarietà a Saviano, a quanto aveva giustamente, correttamente evidenziato. Guardi, lei ha fatto benissimo. Ecco, io credevo che lei non volesse entrare in questa piccola polemica, invece mi fa piacere che l'abbia fatto, perché effettivamente io stesso prendo posizione riconoscendo, come dire, la forma dialettica, quindi il fatto che ciascuno possa pensare quel che crede, però ho trovato francamente incredibile che si potesse sottovalutare la penetrazione dei casalesi, in particolar modo in quella città. Dottoressa Musti, c'è differenza, diciamo così, nell'approccio in Emilia e in Romagna a questi temi, oppure oramai, come dire, tutto il mondo è paese? Oddio, c'è differenza per il semplice fatto che il pubblico ministero in Emilia Romagna è meno a contatto con il fenomeno mafioso rispetto al pubblico ministero della Puglia, della Campania, della Calabria, della Sicilia, cioè di quelle regioni che sono proprio la culla dei fenomeni mafiosi. Certo. Noi ci lavoriamo anche noi con uguale impegno, però diciamo che sicuramente è un impegno enorme, ma comunque è un approccio culturale un po' diverso. Certo, proprio perché noi non abbiamo una presenza di mafia accertata, abbiamo un problema che però è un problema grossissimo, che è quella della infiltrazione o della penetrazione attraverso i canali economici. Assolutamente. E quindi è meno lampante, certo, ma è comunque sia preoccupante. Assolutamente, ecco. Sì, allora, tra i settori più sensibili e purtroppo battuti da anni, lo dimostrano le indagini e le inchieste, c'è quello degli appalti. Ben venga un osservatorio permanente, così come ha fatto la provincia di Modena. Pagani, che è assessore provinciale alle infrastrutture e referente di questo osservatorio, credo che sia in grado più di altro di raccontarci qual è la situazione sul territorio. Perché avete sentito il bisogno di creare un osservatorio permanente sugli appalti? Quanto vi fa paura? Parliamo in termini proprio chiari, Pagani. Quanto vi fa paura sapere che tra le società, tra le imprese che lavorano, ce ne sono alcune che magari sono prestanomi di famiglie mafiose? Beh, io credo che in provincia di Modena l'economia sia un'economia sostanzialmente sana, anche se ci sono sicuramente infiltrazioni in alcuni settori dell'economia, in particolare nei settori delle costruzioni, infiltrazioni malavitose. L'osservatorio degli appalti, devo dire che è uno strumento utile, efficace, nato ben 10 anni fa, quando probabilmente vi era anche meno sensibilità a questo fenomeno, e ha svolto un ruolo importante. Ecco, io vorrei che lei lo illustrasse questo ruolo, perché la prima sensazione potrebbe essere: eccolo lì, l'ennesimo osservatorio, l'ennesima struttura burocratica di una provincia o di una qualunque altra istituzione pubblica inutile. Ci racconti invece concretamente a cosa è servito, come barriera, diciamo così, e come sentinella di legalità sul territorio? Beh, l'osservatorio fa parte delle azioni previste dal protocollo d'intesa firmato a Modena da tutte le istituzioni, ma anche dall'INPS, dall'INEL, dalle direzioni provinciali del lavoro, casse edili, eccetera. Ed è uno strumento molto utile e valido, formato appunto, come dicevo, 10 anni fa, voluto dalla provincia di Modena e dal comune di Modena, e ha come obiettivo la trasparenza degli appalti, raccoglie dati per metterli a disposizione ovviamente di tutti, forma il personale che poi deve gestire le stazioni appaltanti, e cerca anche di dare un supporto soprattutto a quei comuni più deboli che non sono in grado di avere personale molto qualificato, per riuscire ad aggiornare sempre le procedure e gli strumenti per garantire la qualità delle gare. Benissimo. Ad esempio. Ecco, le gare sono un tema delicatissimo e ha fatto bene a ricordare dunque che l'osservatorio serve anche per questo, supporto, diciamo così, tecnico, informativo, anche per predisporre le gare, punto vitale e nodale. Allora, io ringrazio i miei ospiti Lucia Musti ed Egidio Pagani, ringrazio Paolo Corleoni in regia ed Elisabetta Fusconi in studio, e ricordo a tutti che da oggi e per un intero mese è in edicola il mio libro Economia criminale, storie di capitali sporchi e società inquinate, in vendita con il Sole 24 Ore. Grazie a tutti e buona giornata.